Oggi è il martedì della settimana santa e le letture della Santa Messa ci introducono alla passione di Gesù. Il Vangelo parla dei capi dei sacerdoti che si riuniscono, tengono consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. E come prima lettura abbiamo sentito una pagina meravigliosa del libro di Giobbe, questo libro molto bello e molto sconosciuto in genere al popolo cristiano. Io non farò altro che rileggervi il testo, che pure vi è già stato letto, perché non c'è parola di uomo che commenti meglio di quello che dice la parola di Dio. Io lo introduco. Cosa succede? La vicenda di Giobbe la conosciamo tutti, no? Giobbe patisce, subisce prove e i suoi cosiddetti amici gli dicono una mentalità che è ancora viva oggi. Se ti capitano tutte queste disgrazie è perché tu hai fatto tanti peccati. C'è ancora questa mentalità, no? Se ci capita una disgrazia, cosa ho fatto di male perché il Signore mi castighi così? Non ha fatto niente di male. Giobbe non ha fatto niente di male. Ma questi suoi amici lo assalgono e lui non ne può più. E oggi risponde in questa maniera: fino a quando mi tormenterete e mi opprimerete con le vostre parole? Sono 10 volte che mi insultate e mi maltrattate in modo sfacciato. Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. Quando io grido al Signore, sono sottoposto a violenza, non ho risposta. Chiedo aiuto, ma non c'è giustizia. Poi dice: il Signore permette che mi capiti nella vita che tutte le mie strade sono sbarrate. Mi hanno spogliato della mia gloria, hanno strappato come un albero la mia speranza. I miei fratelli si sono allontanati da me. Com'è vero, eh? Com'è vero? Finché stai bene, finché va bene, tutti sono lì attorno. Quando hai bisogno ti aiutano per una settimana, poi ci si stanca in fretta. I miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei. Come un estraneo mi trattano le mie serve. Sono come un forestiero ai loro occhi e quando chiamo il mio servo, lui non mi risponde. Devo quasi supplicarlo. Per mia moglie le dà fastidio anche il mio fiato. Tremendo, eh? Il mio fiato è ripugnante per mia moglie. E per i miei figli faccio ribrezzo. Capite, amici, che questa vicenda di Giobbe è di Giobbe, ma è la vicenda in un certo qual modo di Gesù, no? Che viene scartato, viene rifiutato dai suoi discepoli, viene rinnegato da chi gli aveva detto Osanna al figlio di Davide. E questa è la nostra vicenda, quanta gente c'è. E allora dobbiamo, invece di disperarci, non usiamo mai, amici, la parola disperarci. Usiamo la parola sono addolorato, sono prostrato, ma disperato mai, perché vuol dire che sei senza speranza, disperato. Il cristiano, se guarda in faccia Gesù, il crocifisso, vede che è già capitato a lui. Anche i ragazzi mi disprezzano. Se tento di alzarmi mi coprono di insulto. I miei confidenti mi guardano con orrore. alla pelle si attaccano le mie ossa. Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me e non siete mai sazi della mia carne? È una pagina che andrebbe meditata, è una pagina che dovremmo riferire. Provate a pensare, se fossimo capaci, certo bisogna fermarsi qui davanti al tabernacolo o fermarci in casa nostra a meditare quando saremo vecchi, ma vecchi da dipendere di tutto, quando dovranno pulirci la saliva e non solo, quando per mettere le calze avremo bisogno, o mettere le mutande, scusate, avremo bisogno degli altri, quando non riusciremo a fare un passo per andare in bagno e se tentiamo magari si cade. Questa è anche la nostra vita, amici, se non moriamo giovani. Eccolo qui Giobbe, eccolo qui Gesù. Abbiamo bisogno di guardare la nostra esistenza alla luce della parola di Dio, alla luce di Gesù, per non disperarci. E poi alla fine si gira la pagina e c'è una pagina meravigliosa, perché non finisce così. Ah, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con uno scalpello di ferro o col piombo, si incidessero sulla mia roccia, io lo so, che bello, io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo lui si ergerà sulla polvere. Nel nostro rito la Chiesa fa leggere questa pagina durante i funerali. Perché non è mai l'ultima parola il funerale. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Amici, abbiamo bisogno di meditare, abbiamo bisogno di tenere in mano la parola di Dio, abbiamo bisogno di fermarci. Ma sono andato a messa, bellissimo, ma non basta più, perché questa pagina l'abbiamo letta anche prima, ma non so se ci è entrata dentro nel cuore come adesso che io ve l'ho sottolineata, non perché io sono bravo, ma perché ci siamo ritornati sopra. Abbiamo bisogno di meditare, di sorseggiare, di sminuzzare come un pezzo di pane la parola di Dio, di cibarcene boccone per boccone. E allora, a differenza di chi non conosce la parola di Dio, a differenza dei nostri vicini di casa che magari sono brava gente, sono più generosi di noi, però non hanno questa speranza. Oh Signore, riempi la nostra mente e il nostro cuore della Tua parola e donaci la grazia, se Tu vuoi, di essere Tuoi apostoli, di andare per il mondo leggendo questa parola, spiegandola, non facendo i propagandisti e i venditori, ma facendo i testimoni della Tua parola di vita.